Capitolo 25. Una bella mattina di giugno, una quindicina di giorni dopo il temporale di zio Abe, Anna attraversava lentamente il cortile di Green Gables, uscendo dal giardino, e aveva in mano due steli appassiti di fiori bianchi. «Guarda, Marilla!» disse addolorata, alzando i fiori davanti agli occhi di una signora arcigna con i capelli nascosti da un fazzoletto di percale verde, che stava entrando in casa con in mano un pollo spennato. «Questi sono gli unici getti risparmiati dal temporale e sono comunque sciupati. Mi dispiace tanto, volevo portarne qualcuno sulla tomba di Matthew. Gli piacevano tanto questi fiori.» «Anche a me spiace un po', ammise Marilla. Per quanto non sia giusto lamentarsi di questo quando sono accadute cose ben peggiori, tutti i raccolti sono andati distrutti e così i frutti.» «Ma la gente ha di nuovo seminato l'avena», disse Anna in tono rasserenante. «E il signor Harrison dice che se avremo una buona estate crescerà benissimo, anche se sarà tardiva.» «E le mie piante annuali stanno ricrescendo anch'esse, ma niente, ahimè, può sostituire i bianchi fiori di giugno. Neanche la povera Esther Gray li avrà quest'anno. Ho fatto tutta la strada fino al suo giardino ieri sera, ma non ce n'era neanche uno. Le mancheranno, sono sicura.» «Non mi sembra opportuno che tu dica queste cose, Anna», disse Marilla severamente. «Esther Gray è morta da 30 anni e la sua anima è in cielo, così spero.» «Sì, comunque io credo che là mi ricordi il suo giardino qui sulla terra», disse Anna. «So di sicuro che seppure avessi vissuto tanti anni in paradiso, mi piacerebbe guardar giù e vedere qualcuno mettere fiori sulla mia tomba. Se avessi posseduto un giardino come quello di Esther Gray, mi ci sarebbero voluti ben più di 30 anni, persino in paradiso, per non provarne nostalgia di tanto in tanto.» «Allora, non farti sentire dai gemelli», fu la debole protesta di Marilla mentre portava il pollo in casa. Anna si appuntò i fiori tra i capelli e andò al cancello, dove rimase qualche minuto a crogiolarsi al sole di giugno, prima di rientrare per sbrigare le faccende del sabato mattina. Il mondo stava ritornando bello, la vecchia madre natura faceva del suo meglio per cancellare le tracce del temporale e anche se per molte lune non ci sarebbe completamente riuscita, in realtà faceva miracoli. «Come vorrei starmene tutto il giorno con le mani in mano oggi», disse Anna a un uccellino azzurro che cantava e si dondolava sul ramo di un salice. «Ma una maestra che dà una mano ad allevare due gemelli non può permettersi di essere pigra, caro il mio uccellino. Com'è dolce il tuo canto, e esprimi con esso quello che io provo in cuore, molto meglio di come farei io stessa. Ma, chi mai arriva?» Una carrozza, con due persone a cassetta e con dietro un grosso baule, sobbalzava su per il viottolo. Quando fu più vicina, Anna riconobbe nel guidatore il figlio del gerente della stazione di posta Bright River. Ma il suo compagno era uno sconosciuto, anzi una sconosciuta, una donnina che balzò agilmente a terra quando fu al cancello, quasi prima che il cavallo si fermasse. Era una personcina molto graziosa, evidentemente più vicina ai 50 che ai 40, ma con le guance rosee, degli occhi neri scintillanti e dei lucenti capelli neri sormontati da un magnifico cappellino tutto fiori e piume. Nonostante avesse viaggiato per più di una decina di chilometri su una strada polverosa, era linda ed elegante come di più non si potrebbe. «È questa la casa dove vive il signor James Harrison?» chiese vivacemente. «No, il signor Harrison vive lassù», rispose Anna del tutto sconcertata. «Beh, lo dicevo io che questo posto mi sembrava troppo ordinato per James, a meno che non sia molto cambiato da come lo conosco io», cinguettò la donnina. «È vero che James ha intenzione di sposarsi con una donna che vive in questo circondario?» «Oh no!» gridò Anna, arrossendo con aria così colpevole che l'estranea la guardò curiosamente, come se quasi la sospettasse di nutrire delle speranze di matrimonio nei confronti del signor Harrison. «Eppure l'ho letto su un giornale dell'isola», insistette la bella sconosciuta. «Un amico me ne ha mandato una copia, segnando l'articolo. Gli amici sono sempre pronti a fare cose del genere.» Il nome di James era mascherato dalla definizione recente concittadino. «Oh, quella noterella era solo uno scherzo», rispose Anna. «Il signor Harrison non ha alcuna intenzione di sposare una qualunque donna, le assicuro di no.» «Mi fa proprio piacere saperlo. disse la rosea signora, arrampicandosi svelta al suo posto sulla carrozza, perché si dà il caso che sia già sposato e sua moglie sono io. Oh, capisco che lei sembri sorpresa. Immagino che si sia spacciato per scapole e non abbia fatto che spezzare cuori a destra e a manca. Bene, bene, James, continuò annuendo energicamente in direzione della lunga casa bianca. Il divertimento è finito. Sono qua io. Ora, anche se non mi sarei data la pena di venire se non avessi pensato che te ne stavi combinando una delle tue. Immagino, aggiunse volgendosi ad Anna, che quel suo pappagallo sia sempre lì ad imprecare, eh? Il pappagallo? È morto, credo. Boccheggiò la povera Anna che in quel preciso momento non si sentiva sicura neanche del proprio nome. Morto? Ah, allora tutto è accomodato, gridò con aria di giubilo la rosea signora. Posso farcela con James se quell'uccello è fuori dai piedi. E con quell'ambigua esclamazione proseguì allegramente il suo cammino, mentre Anna volava alla porta della cucina incontro a Marilla. Anna, chi era quella donna? Marilla, dichiarò Anna con voce solenne ma con occhi birboni. Ti sembro matta, eh? Non più del solito, disse Marilla senza alcuna intenzione di sembrare sarcastica. Beh, allora credi che sia sveglia? Anna, che sciocchezze vai dicendo? Ti ho chiesto chi era quella donna. Marilla, se non sono matta e sono sveglia, quella non può essere fatta della stessa materia dei sogni, deve essere reale. Comunque, sono sicura che se avessi voluto immaginare un cappellino come il suo, non ci sarei riuscita. Dice di essere la moglie del signor Harrison? Marilla sgranò gli occhi a sua volta. La moglie? Anna Shirley. E allora perché mai lui si è fatto passare per uno scapolo? Credo che in realtà non l'abbia mai fatto, disse Anna cercando di essere imparziale. Non ha mai detto di non essere sposato. La gente l'ha semplicemente dato per scontato. Oh, Marilla, che cosa dirà la signora Linde? Quel che aveva da dire la signora Linde lo scoprirono quella sera stessa quando venne a trovarle. La signora Linde non era affatto sorpresa. La signora Linde aveva sempre subodorato qualcosa del genere. La signora Linde aveva sempre saputo che c'era sotto qualcosa nella vita del signor Harrison. E pensare che ha abbandonato la moglie, disse indignata. Cose del genere. Lo si legge dappertutto, accadono negli Stati Uniti. Ma chi avrebbe previsto che sarebbe accaduta qui, ad Avonlea? Ma non sappiamo se l'ha abbandonata, protestò Anna, decisa a considerare il suo amico innocente finché le prove non lo avessero dichiarato colpevole. Non conosciamo affatto le ragioni di tutto questo. Beh, le sapremo presto. Ho intenzione di andare subito lassù, disse la signora Linde, che non aveva ancora imparato che sul vocabolario esiste anche la parola discrezione. Potrei non sapere niente del suo arrivo e, dato che il signor Harrison doveva portarmi da Carmo di una medicina per Thomas, ho un'ottima scusa. Scoprirò tutta la storia e al mio ritorno verrò a riferirvi. La signora Linde si precipitò laddove Anna non avrebbe osato neppure camminare in punta di piedi. Nulla avrebbe indotto quest'ultima a recarsi dagli Harrison, ma essendo anch'ella dotata della sua naturale dose di curiosità, era segretamente contenta che la signora Linde stesse per risolvere quel mistero. Lei e Marilla aspettarono ansiose il ritorno della brava signora, ma invano. La signora Linde quella sera non ritornò a Green Gables. Davy, arrivando a casa alle 9 da casa Boulter, spiegò il perché. Ho incontrato la signora Linde e una donna strana nella valletta, disse. E misericordia come chiacchieravano fitto tutte e due insieme. La signora Linde ha detto di dirvi che le spiaceva, ma si era fatto troppo tardi per venire stasera. Anna, ho una fame tremenda. Abbiamo preso il tè da Malty alle 4 e credo proprio che la signora Boulter sia una varaccia. Non ci ha dato né marmellata né torta e anche di pane non ce n'era abbastanza. Devi, quando vai in visita, non devi mai criticare quello che ti viene dato da mangiare, disse Anna solennemente. È da maleducati. Benissimo, allora lo penserò soltanto, rispose Devi tutto allegro. E adesso, su, dai un poveraccio qualcosa da mettere sotto i denti. Anna guardò Marilla, che la seguì nel tinello, e chiuse con circospezione la porta. Puoi dargli anche della marmellata con il pane, Anna. So per esperienza cosa può essere un tè dai Boulter. Davy prese la sua fetta di pane marmellata con un sospiro. È una grande illusione il mondo, dopo tutto, osservò il bambino. Malti ha un gatto che ha le convulsioni. Gli sono venute regolarmente le convulsioni ogni giorno per 3 settimane. Malti dice che è un gran divertimento guardarlo. Oggi sono andato da lui con il proposito di assistere a un attacco, ma quello stupido gatto è stato sano come non mai. Neanche una convulsione. E Malti e io lì tutto il santo pomeriggio ad aspettare. Ma non importa. E Davy si illuminò mentre l'insidiosa consolazione della marmellata di prugne gli si insinuava nell'animo. Forse lo vedrò un'altra volta. Non mi sembra probabile che le convulsioni smettano di venirgli di colpo dal momento che gli venivano di abitudine, no? Questa marmellata è una vera bontà. Davy non soffriva di nessun dispiacere che non potesse essere alleviato dalla marmellata di prugne. La domenica piovve talmente che non parve il caso di muoversi di casa, ma il lunedì ognuno aveva già sentito una diversa versione della storia degli Harrison. La scuola era tutta un bisbiglio e quando Davy venne a casa fu una vera miniera di informazioni. Marilla, il signor Harrison ha una nuova moglie. Beh, non proprio nuova, ma hanno smesso di essere sposati per un lungo tempo, ha detto Malty. Ho sempre pensato che la gente continuasse a restare sposata una volta cominciato, ma Malty dice che no, c'è modo di smettere se non si va d'accordo. Malty dice che un modo è quello di partire, di abbandonare la moglie, che è appunto quello che ha fatto il signor Harrison. Malty dice che il signor Harrison ha lasciato la moglie perché lei gli lanciava contro i piatti e le scodelle. Artie Sloane dice che è perché lei non voleva che lui fumasse e Ned Clay dice che è perché lo rimproverava a lei continuamente. Io non lascerei mia moglie per nessun motivo del genere. Batterei il piede per terra e direi: signora Davy, devi fare solo quello che fa piacere a me perché sono un uomo. La sistemerei per benino. Ma Annetta Bell dice che è stata lei a lasciare lui perché lui non voleva pulirsi gli stivali sulla porta e dice che lei aveva ragione. Voglio andare immediatamente dal signor Harrison per vedere come stanno le cose. Davy tornò quasi subito alquanto depresso. La signora Harrison non c'era. Borbottò. È andata a Carmody con la signora Rachel Lind ad acquistare la nuova carta da parati per il salotto. E il signor Harrison mi ha detto di riferire ad Anna di andare a trovarlo perché le vuole parlare. E ascoltate, il pavimento è tutto pulito. E il signor Harrison si è fatto la barba, anche se ieri non c'è stata la predica. La cucina degli Harrison apparve ad Anna ben diversa dal solito. Il pavimento era stato fregato fino a raggiungere il massimo della pulizia e così era caduto ad ogni suppellettile nella stanza. La stufa era lucida, al punto che Anna vi si poteva specchiare, i muri erano imbiancati a calce e i vetri della cucina brillavano alla luce del sole. Al tavolo sedeva il signor Harrison con i suoi abiti da lavoro, che il venerdì erano stati notati per dei vistosi strappi e per essere un po' sbrindellati e che ora apparivano rammendati e spazzolati. Era accuratamente sbarbato e quei pochi capelli che aveva erano ben pettinati e allisciati. «Sieda, Anna, sieda», disse il signor Harrison con un tono che differiva di poco da quello che la gente di Avonlea usava ai funerali. Emily è andata a Carmody con Rachel Lind, è già diventata amica per la pelle di Rachel Lind. È il colmo come le donne fanno sempre il contrario di quello che uno pensa. Beh, Anna, è finita la pacchia, finita. Pulizia e nitore mi aspettano per il resto della mia vita terrena. Il signor Harrison faceva del suo meglio per sembrare addolorato, ma un irrefrenabile scintillio degli occhi lo tradiva. Signor Harrison, lei è contento che sua moglie sia tornata? Gridò Anna, puntandogli scherzosamente contro un dito. Inutile fingere che non lo è, perché è fin troppo evidente. Il signor Harrison fece un sorriso impacciato. Beh, mi sto abituando, ammise. Non posso dire che mi sia dispiaciuto di vedere Emily. Un uomo ha davvero bisogno di una certa protezione in una comunità come questa, dove non si può giocare agli scacchi con un vicino senza essere accusati di volerne sposare la sorella e senza che il fatto compaia sul giornale. Nessuno si sarebbe azzardato a immaginare che lei facesse la corte a Isabel Andrews se lei non avesse taciuto di essere sposato, disse Anna severamente. Io non mi sono spacciato per scapolo. Se qualcuno mi avesse chiesto se ero sposato, avrei detto di sì, ma l'hanno dato per scontato. Io non ero poi così ansioso di dibattere l'argomento. Mi cuoceva troppo ancora. La signora Lind sarebbe impazzita di gioia se avesse saputo che mia moglie mi aveva lasciato, non crede? Eppure certi dicono che è stato lei a lasciarla. È stata lei a cominciare, Anna, è stata lei. Le racconterò tutta la storia perché non voglio che pensi male di me più di quanto io non meriti. E nemmeno di Emily. Andiamo fuori sulla veranda, qui tutto è così pulito, così terribilmente pulito che mi sento a disagio. Forse mi ci abituerò con il tempo, ma guardare il cortile mi fa bene adesso. Emily non ha avuto il tempo di pulire anche quello. Non appena furono seduti in veranda, il signor Harrison iniziò la sua triste storia. Vivevo a Scotford, nel New Brunswick, prima di venire qui. A governare la casa era mia sorella e tutto filava perfettamente. Lei era ordinata, ma entro limiti ragionevoli. Mi lasciava vivere e persino mi viziava, almeno a quanto diceva Emily. Ma 3 anni fa mia sorella morì. Prima di morire si preoccupò molto per me e alla fine riuscì a farmi promettere che mi sarei sposato. Mi consigliò di scegliere Emily Scott perché Emily aveva denaro del suo ed era una massaia modello. Io le risposi: Emily Scott non mi guarda neanche. Chiediglielo un po' e vedrai, fece mia sorella. E giusto per tranquillizzarla, le promisi che l'avrei fatto. Infatti lo feci. Ed Emily? Mi rispose subito che sì, che mi avrebbe sposato. Rimasi di stucco, come mai mi era successo in vita mia. Una donnina graziosa e intelligente come lei e un vecchio orso come me? Anna, le dico che dapprima pensai di essere proprio fortunato. Bene. Così ci sposammo e facemmo un breve viaggio di nozze di una quindicina di giorni a St. John. Poi tornammo a casa. Tornammo a casa alle 10 di sera e le do la mia parola, Anna, che dopo mezz'ora quella donna era già al lavoro a pulire la casa. Oh, lo so che lei pensa che ce n'era bisogno, Anna. Lei ha un viso molto espressivo, le si leggono in faccia i pensieri, come fossero stampati. Ma bisogno non ce n'era, non fino a quel punto. C'era stata un po' di confusione trattandosi di un appartamento da scapolo, lo ammetto, ma prima di sposarmi avevo fatto venire una donna a fare le pulizie e tutto era stato ridipinto e messo a posto. Le assicuro che se portasse Emily in un palazzo di marmo bianco nuovo di zecca si metterebbe a fregare per terra non appena messe le mani su un vestito vecchio. Beh, pulì la casa fino all'1 di notte e alle 4 ricominciò e continuò così, per quel che mi ricordo, senza mai smettere. Era un continuo strofinare, spazzare, spolverare, tranne che la domenica. E allora lei non faceva che sognare che arrivasse il lunedì per ricominciare. Ma era il suo modo di divertirsi. E mi ci sarei potuto adattare se mi avesse lasciato in pace. Ma questo non lo faceva. Si era messa in testa di rieducarmi. Ma io non ero più tanto giovane. Non potevo entrare in casa senza cambiarmi gli stivali e mettere le pantofole alla porta. Non potevo più fumare la pipa a meno di non andare nel granaio e non parlavo abbastanza forbito. Emily, quando era molto giovane, aveva fatto la maestra e non era riuscita a dimenticarlo e poi detestava vedermi mangiare usando il coltello quando non dovevo. Beh, così era, rimbrotti e brontolii in continuazione. Però, ad essere onesti, penso che anch'io fossi intrattabile la mia parte. Non cercai mai di migliorare come avrei potuto. Diventavo irritabile, scontroso ogni volta che mi coglieva in fallo e un giorno le dissi che non aveva trovato a ridire sulla mia sintassi quando le avevo fatto la dichiarazione. Beh, non fu un'osservazione piena di tatto. Una donna perdona a un uomo uno schiaffo piuttosto che un'allusione al fatto che è stata fin troppo contenta di prenderlo per marito. Insomma, tiravamo avanti tra un bisticcio e l'altro e non era piacevole. Ma forse dopo un po' ci saremmo abituati l'uno all'altro se non fosse stato per Ginger. Fu per Ginger che rompemmo alla fine. A Emily non piacevano i pappagalli e non poteva sopportare l'abitudine che Ginger aveva di imprecare. Io ero attaccato a quell'uccello per amore di mio fratello marinaio. Mio fratello marinaio era il mio beniamino quando eravamo bambini e sul punto di morire egli mi aveva mandato Ginger. Mi sembrava che prendersela per le sue bestemmie fosse una cosa senza senso. Non c'è nulla che detesti più della bestemmia in un essere umano, ma in un pappagallo non è altro che il ripetere quello che ha sentito senza capire. O comprendendo non più di quanto potrei capire io se mi facessero dei complimenti in cinese. Ma Emily non la pensava così. Le donne non sono logiche. Cercò di far perdere a Ginger l'abitudine di imprecare, ma non ebbe più successo di quanto ne avrebbe avuto con me se avesse voluto vietarmi di fare qualche erroruccio o di dire perdinci bacco. E più ci provava e peggio Ginger faceva, e io lo stesso. Le cose andarono avanti così e tutte e due diventavamo sempre più irritabili finché si arrivò al momento cruciale. Emily invitò a prendere il tè il nostro pastore e la moglie, con una coppia di loro amici, un altro pastore e la relativa moglie, i loro ospiti. Avevo promesso di rinchiudere Ginger al sicuro dove nessuno potesse udirlo. Emily non avrebbe toccato quella gabbia per tutto l'oro del mondo. E ne avevo tutte le intenzioni perché non volevo che i due pastori ascoltassero cose spiacevoli in casa mia, ma mi uscì di mente. Emily mi ossessionava con il colletto pulito e con la sintassi a un punto tale che non c'è da meravigliarsene. E così, di quel povero pappagallo non mi ricordai che al tè. Proprio mentre il pastore stava rendendo grazie al Signore, Ginger, che era sulla veranda, fuori dalla finestra della sala da pranzo, alzò la voce. Era comparso il tacchino in cortile e la vista del tacchino aveva sempre un effetto deleterio su Ginger. Quella volta superò se stesso. Rida pure, Anna, e non nego ripensandoci di aver ridacchiato anch'io qualche volta, ma in quel momento mi sentii mortificato almeno quanto Emily. Uscii e portai Ginger nel granaio. Non posso dire d'essermi sentito a mio agio a quel tè. Sapevo, dallo sguardo di Emily, che covavano guai per Ginger e me. Quando gli ospiti se ne furono andati, uscii per andare a dare il fieno alle mucche e per via feci qualche riflessione. Mi dispiaceva per Emily e pensai che non ero stato così sollecito come avrei dovuto e per di più mi chiesi: e se per caso i due pastori hanno pensato che Ginger ha imparato da me quel suo vocabolario fiorito? Per farla breve decisi che Ginger doveva essere pietosamente sacrificato e quando riportai le mucche nella stalla entrai per dirlo a Emily, ma di Emily non c'era traccia. C'era invece una sua lettera sul tavolo, proprio come nei romanzi. Emily mi scriveva che dovevo scegliere o lei o Ginger. Era tornata a casa sua e là sarebbe rimasta finché io non fossi andato a dirle che mi ero sbarazzato di quel pappagallo. Ne fui molto irritato, Anna, e mi dissi che se voleva poteva aspettare là fino al giorno del giudizio. E mantenni la parola. Infilai in un baule la sua roba e gliela spedii. Non le dico le chiacchiere. Scotford non era meglio di Avonlea in quanto a pettegolezzi e tutti presero le parti di Emily. Io diventavo sempre più irascibile e stizzoso e pensai che dovevo togliermi di lì o non avrei più avuto pace. E conclusi che sarei venuto sull'isola. Ero stato da ragazzo e mi piaceva, ma Emily aveva sempre detto che non sarebbe mai vissuta in un posto dove la gente aveva paura di fare una passeggiata al buio per paura di cadere da un precipizio in mare. Così, giusto per farle dispetto, mi trasferii proprio qui. E questo è tutto. Non avevo più avuto notizie né da Emily né di Emily fino a sabato, quando sono tornato a casa dal campo e l'ho trovata qui, che fregava il pavimento, ma ho pure trovato in tavola il primo pasto decente da quando se n'era andata. Mi ha detto prima mangia e poi parliamo. E ne ho dedotto che Emily aveva imparato qualcosa su come ci si comporta con un uomo. Così, ora è qui e ci rimarrà, visto che Ginger è morto e che l'isola è un po' più grande di quel che pensava. Ah, eccola che arriva, con la signora Linde. No, non se ne vada, Anna, resti e faccia conoscenza con Emily. L'ha molto colpita sabato. Mi ha chiesto chi era quella bella ragazza dai capelli rossi della casa accanto. La signora Harrison accolse Anna con aria raggiante e insistette perché si fermasse per il tè. James mi ha raccontato di lei e di quanto è stata gentile a fargli le torte e tutto il resto, disse. Voglio far conoscenza al più presto con tutti i miei nuovi vicini. La signora Linda è una donna incantevole, non è vero? Così cordiale. Quando Anna tornò a casa, nel dolce crepuscolo di giugno, la signora Harrison l'accompagnò attraverso i campi, dove le lucciole già accendevano i loro fulgidi lumini. Immagino che James le abbia raccontato la nostra storia, disse la signora Harrison con tono confidenziale. Eh sì. Allora non occorre che io la ripeta, perché James è un uomo giusto e le avrà detto la verità. La colpa non è davvero tutta sua, ora lo capisco. Ero tornata a casa mia da un'ora e già mi rimproveravo di essere stata così frettolosa, eppure non volevo cedere. Ora capisco che pretendevo troppo da un uomo. Ed era davvero sciocco da parte mia prendermela per la grammatica o la sintassi. Che cosa importa se uno non si esprime correttamente, purché sia un buon lavoratore e non ficchi il naso in dispensa per vedere quanto zucchero la moglie ha consumato in una settimana? Sento che James ed io saremo veramente felici adesso. Vorrei proprio sapere chi era l'osservatore per poterlo ringraziare. Ho un grosso debito di gratitudine con lui. Anna fu la riservatezza fatta persona, e la signora Harrison non seppe mai che la sua gratitudine aveva già trovato il suo oggetto. Anna era piuttosto sconcertata dalle conseguenze di così vasta portata che avevano avuto quelle sciocche note sul giornalino. Avevano fatto riconciliare un uomo con la moglie, avevano fatto la fama di un profeta. Nella cucina di Green Gables, Anna trovò la signora Linde. Aveva già raccontato a Marilla tutta la storia. E allora? Ti è simpatica la signora Harrison? Chiese ad Anna la signora Linde. Moltissimo. La trovo una donnina davvero carina. Proprio così, disse con calore la signora Rachel. E come stavo appunto dicendo a Marilla, credo che dovremmo tutti chiudere un occhio sulle stranezze del signor Harrison, per amor suo, e cercare di farla sentire a suo agio qui. Ecco com'è. Bene, adesso devo andare. Thomas mi starà aspettando. Esco un po' di più da quando è venuta Eliza e mi sembra che lui stia parecchio meglio in questi ultimi giorni. Ma non mi piace allontanarmi troppo a lungo. Ho saputo che Gilbert ha dato le dimissioni da White Sands. Partirà per l'università in autunno, credo. La signora Rachel guardò Anna con uno sguardo scrutatore, ma Anna era china su un sonnacchioso Davy che ciondolava sul divano e non le si leggeva nulla in viso. Portò via Davy, la fresca guancia dal tenero ovale premuta contro la testolina bionda e ricciuta, e mentre salivano le scale, Davy passò mollemente un braccio attorno al collo di Anna e le diede una calda stretta e un bacio appiccicoso. Ah, sei proprio un amore, Anna. Miles T. Boulter ha scritto sulla sua lavagnetta oggi e poi l'ha mostrato a Jenny Sloane. La rosa è rossa, la violetta è blu, dolce lo zucchero e così sei tu. E questo, Anna, esprime esattamente anche i miei sentimenti per te.